todos. Buonasera a tutti e a tutte, e benvenuti. Iniziamo, scusate un po' di ritardo, insomma abbiamo anche un po' più solo della città di Roma, quindi insomma siamo abituati. E io sono Marco Pulisano e sono dell'associazione Amigos MST Italia. È un piacere insomma essere qua, sono molto contento. E presento brevemente questo incontro per una piccola introduzione, per insomma, un po' contestualizzarci e poi partecipare tutti in linea anche con lo spirito del libro che stiamo presentando, e è proprio di cercare di fare una attività, insomma, un incontro il più possibile anche partecipativo. Come dicevo, io sono dell'associazione Amigos MST Italia, una piccola associazione che si occupa di raggruppare varie realtà, gruppi in Italia che si occupano di appoggiare e sostenere il movimento Sem Terra del Brasile. E siamo qui alla fondazione, abbiamo fatto diverse cose, è un piacere, e innanzitutto ringrazio appunto la fondazione Basso per averci ospitato, per essere qui ancora una volta, insomma, dare spazio a questi incontri, a questi temi, e insomma grazie intanto alla fondazione. E sono molto contento e ringrazio l'autrice del libro, Maria Teresa, che è molto, cioè, interessante, ora non sto qui a raccontare come siamo, come ci conosciamo, però insomma sono dei percorsi che la vita fa, ci siamo conosciuti tanti anni fa, attraverso Federica, che è anche qui presente, e che proprio in Brasile, mentre lei appunto svolgeva questa ricerca di dottorato di cui mi parlava, ma io in realtà sapevo poco poi nei dettagli, e invece insomma qualche mese fa poi ho ricevuto una copia di questo, del frutto insomma di questo suo lavoro, dei racconti che mi faceva ormai 4-5 anni fa. Sono imprecisato. Però ecco, è stato bello, ed è bello oggi essere qui a parlare, a presentare questo libro, pensando anche a questo percorso. E insieme a noi abbiamo per la Fondazione Basso Gianni Pugnoni, che è il segretario generale del Tribunale Popolare di Popoli, e insomma adesso poi lascerò la parola a lui per presentarsi e sapere anche perché siamo qui la Fondazione, e Alessandra Pigliaro, che è responsabile della settore, della pagina Cultura del Manifesto, però insomma la pagina del Manifesto, filosofa insomma che si occupa da tanto tempo anche delle questioni femministe, di genere, insomma dialogherà con noi insomma rispetto al libro, e Paolo Vittoria, docente universitario, e per anni insomma è stato docente all'Università Federale di Rio de Janeiro, e da poco credo sia ritornato in Italia all'Università Federico II di Napoli, e si occupa da tanti tempo di questioni di educazione popolare, di pedagogia, di comunità, quindi insomma tutti i temi trasversali che sicuramente poi qui nel libro si trovano e sono molto molto ben e accuratamente approfonditi. Sì. Quindi lascio la parola a Gianni. Il mio compito è salutare il nuovo di Franco Ippolito, che è la fondazione, io faccio parte del consiglio della fondazione della Basso, ma qui ho vissuto un po' praticamente tutta una vita, prima che voi cominciaste a vivere cominciavamo a fare una storia nostra col Brasile, perché penso che il mio compito è quello semplicemente di dare un benvenuto in una casa del Brasile che in qualche modo ha incrociato tutte le persone che voi citate nel libro, nel senso che da Lula per qualche settimana agitare la fondazione come suo gruppo di riferimento, a Paolo Pregere, a tutti i movimenti via Campesino, movimenti Sem Terra, Casaldarga, cioè via via guardando la letteratura è un po' come se qui e nella casa delle famiglie brasiliane, di Monica, è passato tutto il Brasile, ed è passata un po' tutta la nostra storia, che ricordo brevemente senza farla lunga perché è importante ascoltare quella che è la mia prima impressione, è come se fosse un'altra storia che incomincia nel Brasile. La storia del Brasile è incominciata qui quando incominciava quella di addirittura alla fine della quale incomincia nell'83 la storia del movimento delle donne campesine. Il Brasile era nella dittatura quando è stato oggetto di un tribunale Russell sull'America Latina tra il 74 e il 76, e qui erano presenti i torturati e quelli che venivano dai sotterranei della storia, tra i Becker. Da allora, tra questi esiliati, c'era una persona come Linda Bindi, che è diventata poi una delle fondatrici della Fondazione Internazionale del Basso e che ha portato avanti tutta una storia che non è raccontabile qui, ma che penso sia importante nel presente, perché in qualche modo lui da stesso, quando è venuto qua, l'ho citato come uno di riferimento, è uno che ha attraversato tutte le tante storie del Brasile, dei movimenti del Brasile, che hanno trovato modo di essere nella società brasiliana i tanti rappresentanti o le tante rappresentanti di quello che in qualche modo è sempre stato un po' il sogno del Brasile. Ho citato molto tutta la parte della teologia della liberazione, penso che qui siamo anche qui con i dove tutto passati tutti. La domanda che si pone oggi, ed è per quello che vi do il benvenuto, che auguri per tutto il futuro, è di sapere come effettivamente in un mondo globale quella grande esperienza brasiliana, che è stata poi molto repressa, che è stata tutte delle storie molto pesanti di repressione, di ripresa di tante cose, che non sa ancora adesso trovare fino in fondo una sua strada di unificazione, perché è molto creativo. Noi stiamo preparando un'altra sessione del Tribunale Permanente dei Popoli per il popolo del Cerrado, enorme regione brasiliana, molto poco conosciuta, importante dal punto di vista anche ambientale, quanto quello delle Amazzoni. Abbiamo incontrato e stiamo incontrando tante comunità, tutte di donne. Ogni volta che incontriamo alcuni di questi gruppi, non conoscono degli altri gruppi. Il Brasile è un continente molto grande, e la grande sfida, se ne parlava anche l'altro giorno appunto con Lula, è come ridare a un paese che ha avuto una storia così importante un tessuto che riesca a combinare una antica tradizione dal Sertão, dal tempo della vita e morte severina, fino adesso ha cercato di rendere visibile il popolo dei poveri del Brasile, le donne tutte e il movimento delle donne, e che di colpo si è trovato, di colpo o forse non di colpo, in una situazione che sembra averlo fatto regredire di non si sa quanti anni, perché il problema non è soltanto il problema del ritorno dei militari con Bolsonaro, è un ritorno che incrocia una sinistra o una popolazione estremamente frammentata. Per cui io posso vedere questo come un testo importante per comunicare anche un movimento. Vengono citati dei movimenti e delle porte tutta la parte dei simi della terra e tutto, ma lavorando anche noi con la parte dei pesticidi e tutto quello che riguarda l'agribusiness, la domanda grossa è quanto nel mondo globale questi movimenti riescono a diventare voce e collegamento per diventare effettivamente rappresentanti delle enormi maggioranze. Il Brasile è diventato, della via Campesina, perché siamo tutti amici, entrare nella urbanizzazione del Brasile, nelle favelas e tutto questo, il come combinare questo universo enorme di cultura, perché, ripeto, sarà un compito importante il fatto di incominciare con un libro che è anche il risultato di una tesi di dottorato e tutto, e per ricordare che in un movimento di solidarietà così forte è importante proprio pensare a un movimento che sia, come abbiamo sempre cercato di fare, un movimento di ricerca molto approfondita. Non è più il Brasile che si è aiutata, è un interlocutore molto problematico, molto discusso all'interno e all'esterno, come la cosiddetta un tempo democrazia italiana non è più una democrazia di riferimento per nessuno, tantomeno per il Brasile. e questo significa che movimenti come il vostro, che sono di una nuova generazione, evidentemente hanno un compito davanti che auguriamo abbia magari le sofferenze, ma anche i grandi risultati che può aver avuto il movimento che 40 anni e più fa era incominciato proprio per liberare dal voto aperto. Gli autori che ho citato giustamente come Freire, La pedagogia degli oppressi, che è stato uno dei primi libri pubblicato da Linda Bindi quando è arrivata in Italia, in Brasile, ed era allora qualcosa che sembrava la continuità e un dialogo con Don Milani. Oggi la popolazione italiana, la cultura italiana è fatta in un'altra maniera, occorre proprio immaginare linguaggi e comunicazione che possano garantire una continuità. Auguri, grazie per essere venuti qua e mi metto ad ascoltare. Metterci da dietro. Vabbè, facciamo un'eccezione, dai. Ecco, parliamo di spalle. Ma è difficile. Quindi dobbiamo stare dietro proprio. Sì, dai, facciamo un'eccezione. Siamo costi nella una sedia da Maria Teresa. Ah, possiamo tenere sulle ginocchia. No, ci sono. Ma come vuole? Va bene, dai. Ti chiedo scusa per la... Chi è il prossimo? Lei? No? Vuoi andare tu? No, vai, vai. Vado io? Sì. Buona tarde di nuovo. Adesso col microfono è anche più un effetto particolare. Va bene, ci avete messo in una posizione un po' scomoda per noi freiriani ortodossi, diciamo... che tendiamo sempre a scavalcare la cattedra, o in qualche modo, o a dribblarla, insomma, cercare di evitare qualsiasi forma di barriera, ma in questo caso lo vediamo come un tavolo alla Don Milani, diciamo, lo interpretiamo in un altro modo. Grazie anzitutto per l'invito, grazie a tutti voi, e ascoltavo l'introduzione quasi come se fosse una musica, perché veramente sentirsi parte di una storia, no? Che non nasce adesso, ma che ha un suo percorso politico, civile, fatto di battaglie, fatto di incontri, di dialoghi, è importante riconoscersi come parte di una storia e non essere isolati. C'è un pensiero della destra, se vogliamo chiamarlo pensiero, ma diciamo una strategia, lo dicevamo prima, che è quello di, in conversazione prima dell'incontro, che è quello di disorganizzare il pensiero. Non è una destra che organizza un pensiero di destra, è una destra che tende a destrutturare il pensiero, le forme di quello che Freire chiamava lettura del mondo, no, un analfabetismo di conoscenza, di introduzione proprio all'oggetto di conoscenza. Si vuole rompere quel rapporto tra soggetto e oggetto della conoscenza, tornando a Freire, rompere tutto quello che è dialogo, che è dialettica e che è anche organizzazione sociale. Non esiste in questo momento una relazione dialettica appunto sinistra e destra all'interno della democrazia. Esiste un'aggressione all'organizzazione del pensiero che purtroppo attinge, purtroppo ha un effetto, è un effetto anche sorprendente. Ed è quello che appunto sta accadendo in Brasile. Si è passati da un'idea di avanguardia, rispetto a quello che poteva essere un paese trainante di idee legate ai movimenti sociali, l'educazione popolare, pedagogia di comunità, la teologia della liberazione, invece ha una situazione, diciamo, quasi da incubo, in cui è anche difficile un pensiero della contraddizione. Cioè, mi riferisco a quale pensiero che contrario al mio, non si sa, perché in realtà è un processo di spiazzamento continuo, cioè di imbarbarimento del pensiero. E questo ha delle strategie ben chiare, dalla strategia mediatica a quella giudiziaria, a quella anche di criminalizzazione della scuola, criminalizzazione dell'università, un progetto di legge chiamato Scuola sem partito, ne avrete sentito parlare, e uno dei principali relatori di questo progetto di legge era vereador di Rio de Janeiro, ed era proprio lui, era proprio Bolsonaro. È un progetto che vuole negare qualsiasi forma di pensiero politico all'interno della scuola, cioè vuole affermare come principio basilare della scuola la neutralità. E se il professore, la professoressa, eccetera, si espone in qualche modo anche a raccontare a un autore che ha un pensiero politico, viene, può essere tacciato dell'accusa di indottrinatore e quindi essere in qualche modo allontanato o comunque sentirsi minacciato dai propri studenti, cioè tramite questo strumento, che poi diventa uno strumento di rottura della relazione pedagogica, si mette lo studente nella posizione di poliziotto del docente. Quindi non è soltanto l'ideologia, ma è anche il metodo. Non so se vi ricordate, quando stavamo a scuola, io questo ricordo quasi da incubo, quando c'era la divisione tra buoni e cattivi alla lavagna, per me era una cosa, insomma, che tremavo proprio dietro al banco. E poi, ancor peggio, cosa ancor più sadica, si metteva un soggetto che di solito è il primo della classe oppure qualcuno caro all'insegnante a fare da vigilante, insomma, no? A vigilare su chi è buono e chi è cattivo. E io poi, insomma, scivolavo sempre dal lato sinistro, diciamo, a quello dei cattivi, perché naturalmente poi assumevo un atteggiamento di ribellione rispetto a tutto ciò. E queste sono forme di controllo, di organizzazione, che in realtà di organizzazione della classe, che in realtà hanno un'ideologia di controllo e di mettere gli uni contro gli altri. È in qualche modo la metafora di quello che sta accadendo, cioè di mettere gli uni contro gli altri, di mettere le periferie contro gli immigrati. Quindi non è una strategia che appartiene soltanto a Bolsonaro o al Brasile, che è anche un po' metafora, diciamo, il Brasile nella sua complessità è anche un po' metafora del mondo, insomma, ma è una strategia globale. Il libro di Maria Teresa va sicuramente in una direzione contraria, di controegemonia, se vogliamo dire, se vogliamo definire questo processo di destrutturazione come processo di egemonia che rende le persone inconsapevoli e quindi poi riesce ad attaccare, a attecchire con messaggi di propaganda più sgangherati possibili, in modo tale da creare, diciamo, un caos sociale, un caos mentale. Altro che caos, insomma, questo libro invece è un libro profondamente organizzativo del pensiero, organizzativo a livello sociale, organizzativo a livello politico, organizzativo a livello educativo, ed è un libro che chiaramente nella sua prospettiva storico-critica ed etnografica, nel rintracciare e raccontare i movimenti delle donne contadine in Santa Catarina, nel sud del Brasile, ci dice subito una cosa, che la neutralità dell'educazione è una enorme falsità, perché l'educazione nasce da un pensiero, il pensiero non può essere mai neutrale. Sembra ovvio dirlo, però di questi tempi è importante ricordarlo. E questo libro lo fa perché ci riporta a una dimensione politica dell'educazione, ma una dimensione politica che è una dimensione civica, che è una dimensione appassionata, che è una dimensione quindi che ti fa appassionare, che ti conduce nelle terre brasiliane. Io ho vissuto tanto tempo in Brasile, sono 3 anni che sono tornato in Italia e non sono tornato ancora, non è vero, perché con questo libro invece mi hai fatto tornare in Brasile, ed è bello a volte tornare nei luoghi con i libri, no? Anzi, forse è ancora più bello, non lo so, non facciamo una comparazione, però tornare nei luoghi con i libri è qualcosa di speciale, quindi Maria Teresa mi ha permesso qualcosa di speciale, che è quello di tornare nel Brasile che io amo proprio, nel Brasile che, da cui ho imparato tantissimo, il Brasile di Paulo Freire, il Brasile del Movimento Sem Terra, il Brasile di Augusto Boal, ma anche il Brasile di Josué de Castro, Geografia della Fame, Gilberto Freire, del pensiero decoloniale, il Brasile che dalle situazioni, da quelle contraddizioni, fa nascere un pensiero di resistenza che è un pensiero creativo, perché riesce a essere profondamente organizzato, cioè riesce profondamente a organizzarsi. Ho fatto un'esperienza nella scuola nazionale del Movimento Sem Terra, che è la scuola Florestan Fernandes, e prima stavamo scherzando sulla questione dei tempi, se cominciamo un po' dopo, il quarto d'ora accademico, vabbè, ma siamo a Roma, insomma, e questo in Brasile è effettivamente molto accentuato. Ce ne facevamo una riunione all'università, non sapevamo chi veniva e se veniva, e così in classe, cioè è sempre nella sfera della possibilità, non avevi mai una certezza. Vai alla scuola del Movimento Sem Terra, alla scuola Florestan Fernandes, se ti svegli un minuto dopo perdi tutte le attività, cioè dalla colazione, voglio dire, alla mistica, all'attività educative, c'è un rispetto dei tempi perché c'è un pensiero collettivo. Allora, nello stesso paese ci sono tempi diversi, nello stesso paese c'è un tempo della disorganizzazione, c'è un tempo della destrutturazione, c'è un tempo dell'individualismo in cui non sai neanche se ti incontri, e invece c'è un tempo collettivo, c'è un tempo dell'organizzazione dei movimenti sociali, dei movimenti politici, da cui possiamo imparare tanto, perché credo non dobbiamo rassegnarci, anzi credo sicuramente non dobbiamo rassegnarci rispetto a questa strategia dell'atomizzazione, ma organizzarci. E quindi credo che questa possa essere un'occasione non solo per commentare il libro di Maria Teresa, ma anche per organizzarci e continuare ad organizzarci in funzione di un pensiero politico, di un sogno politico, che è quello umano, solidale, che tu ci riporti nel libro. E io dovevo fare una domanda e non la faccio, perché passo la parola ad Alessandra Pigliaro, che come è stata già presentata, e poi noi faremo delle domande a Maria Teresa, e Patrizia Morgante si è preparata una domanda e la vuole assolutamente fare prima di andare, quindi ma intanto buonasera a tutte e a tutti. Io ringrazio dell'invito, ringrazio Maria Teresa Muraca in particolare, di cui sono molto contenta, insomma, riguardo il suo lavoro su questo libro, che è un volume preziosissimo, sia da un punto di vista della documentazione, sia da un punto di vista della ricerca, e sia da un punto di vista della sua esperienza. Ringrazio Marco Gulisano, ringrazio Gianni Tognoni e ovviamente saluto Paolo Vittoria. A differenza di Paolo, io non sono mai stata in Brasile, per cui non vi racconterò episodi, insomma, che in qualche modo sono certamente utili da ascoltare, ma che magari tolgono tempo un po' all'autrice, con cui mi vorrei mettere in realtà invece direttamente in relazione, chiedendole questo, insomma, se lei ci vuole collocare in qualche modo questo suo lavoro, partendo dal fatto, insomma, delle tempistiche, quindi quanto tempo è stata in Brasile, intanto il perché lei si è rivolta proprio a questo oggetto di ricerca, quali sono gli strumenti che ha utilizzato e quali sono in qualche modo le prime esperienze che l'hanno condotta ad arrivare proprio a mettersi in relazione con le donne del, insomma, il movimento delle donne contadine di Santa Catarina. E questo credo che sia un po' il fulcro e che ci porta dentro, insomma, il cuore del lavoro di Maria Teresa. Come ha detto Paolo, mi piace ribadirlo Questo è un libro, mi è piaciuta molto l'espressione del pensiero organizzato e organizzativo, perché davvero se voi andrete a leggere poi il volume, mi auguro che qualcuno di voi lo abbia già fatto, altrimenti c'è Federica che molto gentilmente tiene il banchino con i libri da acquistare. Vedrete quanto Maria Teresa abbia lavorato con un metodo rigorosissimo da un punto di vista scientifico. Va benissimo la passione, nel senso che immagino che appunto sia stata questa a muoverla, come dire, al principio. Però voglio spendere proprio una parola sul fatto che da un punto di vista anche scientifico noi abbiamo una fonte finalmente in Italia che si articola in qualche cosa di affidabile e certo nel momento in cui vogliamo ricostruire la storia, che anche appunto ci consente di entrare in quella genealogia critica di cui prima ha parlato Gianni, poi ha appunto citato anche Paolo, ma che in qualche modo con Maria Teresa procede e si vivifica e diventa a suo modo rigenerante. Per cui io vorrei chiedere appunto a Maria Teresa se vuol dirci due parole lei e collocare il suo lavoro e eccetera. Grazie. Grazie, anch'io spendo due parole importanti perché penso che l'atteggiamento della gratitudine, no, sia qualcosa che ha caratterizzato molto questo lavoro di ricerca, e la gratitudine è qualcosa che ci fa riconoscere anche i riferimenti dai quali partiamo per procedere nel nostro cammino e anche quindi sentirsi parte di una storia più grande. Quindi ringrazio tanto Alessandra e Paolo che sono qui e rendono proprio nel nostro dialogare, penso che emergeranno tanti legami, tante relazioni che ci legano. E ringrazio tantissimo Marco per tutto il lavoro proprio di comunicazione, di mediazione che ha svolto in questi mesi. Veramente è stato fondamentale anche creare anche la relazione con la Fondazione. Sono orgogliosa e felice di essere in questo luogo. Ringrazio l'ospitalità. Poi vorrei ringraziare anche Sonia, Giorgia e Federica, perché sono tre persone che sono anche un po' dei punti di riferimento per questo libro, perché sono parte della storia che mi ha messo in moto per continuare a cercare e ricercare. Questo libro nasce da un'inquietudine esistenziale e politica innanzitutto. Nella mia esperienza mi sono resa conto che, insomma, fin dall'adolescenza in modo particolare, molta della mia educazione si è forgiata negli spazi dell'impegno e negli spazi dell'associazionismo, negli spazi degli incontri anche organizzativi che ho appunto avuto l'onore di nutrire e anche che mi hanno nutrito. Quindi questa è stata una componente così importante della mia vita che, arrivato a un certo punto, ho pensato che volevo veramente dedicarmi a spiegare effettivamente che cosa succede all'interno di un movimento da un punto di vista educativo, che tipo di trasformazioni la partecipazione attiva rispetto ai percorsi personali e rispetto ai percorsi comunitari, no? In che modo le vite delle persone vengono investite dalla partecipazione politica. Ovviamente in tutto questo l'America Latina è stato un punto di riferimento fondamentale. Prima anche lì la dimensione esperienziale ed esistenziale è stata precedente, perché appunto con Sonia nel 2006 abbiamo fatto questa esperienza di volontariato con un movimento di giovani di strada in Guatemala, e quindi da lì è nata la passione proprio per i movimenti e l'unione tra movimenti ed educazione popolare e movimenti sociali. E poi da lì è nato anche il percorso che mi ha condotto poi in Brasile a conoscere i movimenti contadini, e in modo particolare poi il movimento delle donne contadine. Che, ecco, anche questo vorrei che fossero visibili le connessioni che mi permettono di stare qui oggi a parlare del movimento, le tante voci che popolano questo libro e le tante persone, le tante donne che hanno scritto questo libro insieme a me. Io mi sono incaricata in qualche modo appunto di dare una di fare giustizia anche della complessità del movimento, studiando molto, cercando di affinare sempre di più la scrittura, però ecco, questo è un libro collettivo scritto dalle donne del movimento in primis, scritto dalle donne che hanno fatto la storia del movimento, che è una storia che nasce appunto nel 1983, in un momento in cui in Brasile non c'era ancora un governo democratico, ma che si aveva una fase di apertura democratica. In questo contesto, diciamo, germinano tutte quelle esperienze politiche che erano state pazientemente coltivate, seminate durante la dittatura, soprattutto dalla Teologia della Liberazione, e poi la grande ispirazione dell'educazione popolare. Quindi nasce il movimento di donne contadine, nascono anche altri movimenti come il movimento dei Senterra, appunto, che è un interlocutore fondamentale del movimento delle donne, è una delle organizzazioni con cui le donne contadine collaborano all'interno della Via Campesina. La mia ricerca si è svolta lungo 5 anni, dal 2011 al 2015, però in particolare ho vissuto 3 anni in Brasile. E c'è stata una fase molto intensa di campo in cui ho vissuto nella casa delle donne del movimento, dato che appunto studiavo un movimento, bisogna stare un po' in movimento, per cui cambiavo casa ogni settimana. Quindi sono stata accolta da 30 famiglie, 30 donne contadine, 30 famiglie di 30 donne che vivono in campagna, e in questo è stata, diciamo, la parte più intensiva del lavoro di campo. Dopo questa fase, diciamo che c'è stato un momento bello che solitamente viene un po' trascurato nelle ricerche, ma per me invece è fondamentale, cioè tutta una fase in cui io vivevo comunque in Brasile, non più nelle case delle donne contadine, però le andavo a trovare una volta al mese, giù di lì, per comunque discutere le ipotesi che andavo costruendo, soprattutto quando c'erano delle divergenze, no? Perché fare una ricerca identificata con il movimento non vuol dire che poi si pensa sempre proprio esattamente allo stesso modo con cui il movimento si rappresenta. Per cui c'erano anche queste occasioni di restituzione in itinere, di discussione su quanto andava emergendo, di nuovi momenti di ricerca, che è andato un bel po' avanti. Quindi gli strumenti, diciamo, fondamentali della ricerca sono innanzitutto la partecipazione riflessiva. In ambito antropologico si parla di osservazione partecipante, questo è il nome tecnico, però secondo me questa parola non dà conto effettivamente, perché non si trattava di un'osservazione ma di una partecipazione effettiva alla quotidianità delle donne del movimento, che però cercava quanto più possibile di essere riflessiva. Quindi per esempio lo diario di campo è stato uno strumento fondamentale, no? In cui poter raccogliere domande che non sempre trovavano una immediata risposta, inquietudini, pensieri, eccetera. E poi c'è stato con ogni donna comunque abbiamo realizzato una intervista narrativa, che è stato veramente anche un mezzo per rafforzare anche la relazione con ciascuna di loro, no? Perché poi l'intervista narrativa, la storia di vita, permette proprio anche di ripensare al proprio percorso, alla propria esistenza, alla propria scelte politiche in questo caso, e quindi è stato un grande catalizzatore della relazione tra me e le altre coautrici di questo libro. E poi, insomma, un momento molto interessante è stato anche quello dei focus group. È interessante, diciamo, la discussione che si è realizzata nei focus group, perché i focus group sono una situazione di ricerca molto simile a una pratica del movimento, che è quella dei gruppi di base, per cui appunto nei focus group era possibile vivere proprio allo stesso tempo un momento di ricerca e un momento politico, un momento proprio della vita del movimento. Ecco, penso che è un po' contestualizzato. Allora, io volevo, intanto, proprio perché mentre parlavi, è molto bello, avendo letto, insomma, il libro, effettivamente tutto questo che tu dici, stai insomma brevemente raccontando quanto è poi è denso ed è insomma molto intenso all'interno del libro. E io diciamo volevo intanto fare una così brevissima considerazione rispetto, per esempio, io diciamo, ho finito il mio percorso universitario anni fa, quindi era un po' che non leggevo mai un libro più di insomma carattere scientifico, comunque una ricerca di dottorato. E però è stato veramente molto bello leggerlo, e tu all'inizio parli anche proprio della modalità di scrittura, e in qualche modo proprio della scrittura che a volte, almeno nell'immaginario, un ricercatore si associa sempre a un tecnico, a un qualcosa che insomma di rilevazioni, è chiaro, nella letteratura delle scienze sociali la scrittura è fondamentale, però ecco, ti volevo chiedere un po' questo aspetto proprio della scrittura, che tu in qualche modo poi lo approfondisci un po' questo aspetto, e quindi in che modo poi ti sei anche approcciata alla scrittura, all'elaborazione di queste rilevazioni, di questi incontri, insomma, che ci hai adesso insomma raccontato. Questa era la domanda, proprio perché è un testo scientifico, ma che io ho letto veramente con molto molto piacere, come quasi veramente un romanzo, ma nel senso anche con una diciamo leggerezza, nonostante abbia poi un rigore scientifico e metodologico veramente molto molto bella e interessante, rispetto anche alla bibliografia che in parte è stata citata, molto ricca, insomma magari anche un po' su questo. E ne avrei tante veramente io di domande e di considerazioni, perché è un libro che abbraccia dei tanti aspetti, e credo che una cosa che anche verso la fine tu insomma citi come parola, le risonanze, no? Che è anche un metodo proprio anche dialogico, no? Con la vita di queste persone. E in qualche modo io di risonanze ne ho trovate anche con la mia vita, leggendo tante, e magari piano piano insomma dialogando poi ne tiro fuori altre, però insomma intanto volevo chiederti questo aspetto della scrittura. Grazie per la tua osservazione sulla scrittura, perché in effetti per me, diciamo, ci sono state un po' sono stata un po' combattuta tra due versanti. Da un certo punto di vista per me era abbastanza importante fare un discorso organico sul movimento, dato che è il primo testo che si occupa proprio del movimento di donne contadine in una lingua diversa rispetto a quella che le donne stesse usano per raccontarsi. Per me era molto importante cercare di non tralasciare nulla di rilevante della storia del movimento, quindi ci sono anche molte contestualizzazioni per rendere proprio vicino l'esperienza del movimento a chi magari vive dall'altra parte del mondo. Allo stesso tempo però, quando si è concluso, mi sono chiesta se non fosse un po' troppo, diciamo, questa mole di pagine, se potesse magari scoraggiare i lettori. Ecco, quindi mi fa piacere questa restituzione che tu mi dai rispetto alla scrittura. Sono state fatte varie scelte. Una è stata quella di non nascondermi nella scrittura, non nascondere l'autrice, ma dichiarare sempre il mio posto rispetto sia alla ricerca sia alla scrittura, no? Che era un po' quello che diceva anche all'inizio Paolo, della non neutralità. Per me è importante non tanto ambire a un discorso oggettivo, ma dare conto della mia posizione soggettiva, quindi nel modo più articolato possibile, perché la scommessa è un po' quella che se tu diciamo a partire dal tuo punto ti radichi nella tua storia e parli a partire da quello, dal tuo punto di vista, della tua prospettiva, forse possono nascere delle risonanze negli altri. Questa è stata un po' la scommessa. Questo è anche un libro che dal punto di vista della scrittura ha attraversato varie lingue, perché è stato scritto prima, è stato scritto una parte in portoghese, poi sono ritornata all'italiano, per cui anche risente di questi passaggi. Negli ultimi anni, insomma, nel 2015 ho concluso la ricerca, quindi ho impiegato altri 4 anni per arrivare comunque alla versione che secondo me era accettabile per la pubblicazione, quindi c'è stato anche tanto lavoro. Quindi ecco, ti ringrazio soprattutto per la tua restituzione rispetto alla scrittura, perché è un aspetto che per me è molto importante. Devo fare la domanda? Sì. Devo fare la domanda, quindi... No, c'è una parte nel libro in cui tu fai un'intervista a Giustina. No, e lei dice: quando nel movimento parliamo di educazione, stiamo parlando della coscientizzazione, di come le donne si educano tra di loro. Tentiamo di osservare alcuni principi della metodologia dell'educazione popolare, di rispettare i saperi delle donne, di valorizzarle, di trovare il modo perché queste conoscenze si perfezionino, migliorino o anche che si costruiscano differentemente nel processo della formazione. No, la testimonianza diretta di un'altissima coscienza politica che passa per l'educazione. E un po' prima, quando tu introduci questa parte, ci spieghi che leggerai l'esperienza delle donne contadine a Santa Caterina alla luce di tre categorie: impegno, conflitto e trasformazione. Quindi hai facoltà di rispondere su queste tre categorie a partire dalla testimonianza di Giustina. Grazie, non è proprio una domanda facile. Sì, queste tre categorie, tre luci attraverso cui leggere le storie di vita, le ho scelte proprio perché mi sembravano poi nell'ascolto delle storie di vita, nella partecipazione quotidiana, no, all'esperienza delle donne, mi sembravano proprio le tre grandi questioni, no? L'impegno, quindi tutto ciò che ruota intorno al perché decido di entrare in un movimento, e come si svolge questo graduale assunzione dell'impegno, che tipo di fratture si hanno nell'impegno, con chi anche mi impegno, no? Quindi tutta questa dimensione, e poi comunque anche molto connessa a questo la dimensione dei conflitti, perché io penso che c'è un grande spazio del libro dedicato a questo, perché io penso che proprio sia una questione molto densa dal punto di vista politico ed educativo, spesso non adeguatamente valorizzata anche proprio nei nostri approcci educativi. Tendiamo a cancellare il conflitto, negare il conflitto, mettere a tacere il conflitto, invece di pensare a come confliggere in modo da non, appunto, non massacrarci, non distruggerci, ma far evolvere le situazioni, no? Chi fa parte di un movimento in realtà decide comunque di aprire anche tutta una serie di conflitti, di esporsi rispetto a quello che non deve essere lasciato così com'è, ma deve essere proprio messo a nudo e possibilmente cambiato. Quindi anche ho analizzato tutta questa parte dei conflitti che le donne vivono a livello interiore, per esempio, per la scelta del movimento, con altre donne, che è un tema anche molto importante per un movimento femminista, no? Quali conflitti apre la partecipazione rispetto a donne che non sempre hanno compiuto una scelta simile? Quali conflitti apre nella società la partecipazione, quali conflitti apre all'interno del movimento, perché il movimento non deve essere immaginato come un contesto omogeneo, no? Ma è un contesto attraversato da differenze e anche da asimmetrie, per cui c'è un conflitto che va aperto e anche va vissuto all'interno del conflitto e poi anche con altre organizzazioni. Io lo vedo anche questo molto connesso, la questione dell'impegno del conflitto, anche molto connesso al tema delle trasformazioni, nel senso che di solito si può avere molto timore, no, nei confronti dei conflitti che l'impegno apre. È l'unico, io ho visto che è l'unico atteggiamento che spinge anche le donne a comunque ad esporsi rispetto delle situazioni conflittuali, proprio questo grande orizzonte della trasformazione che hanno, cioè si aprono dei conflitti quando comunque per amore del mondo, come si direbbe, diciamo, anche diciamo in ambito femminista, in particolare una delle radici, insomma, delle ispirazioni di questo libro, che è il femminismo della differenza. Quindi è per amore del mondo e con l'idea di trasformare le situazioni che ci si impegna anche nei conflitti, no? Per cui e tutto questo si vede anche molto a livello educativo, come leggeva prima Paolo la citazione. Giustina è una delle persone più importanti all'interno del movimento, insomma una persona che ha intrapreso questa lotta all'inizio, quando il movimento è stato fondato, e che per tanti anni è stata anche coordinatrice a livello statale, una delle coordinatrici nazionali. Mi sono dimenticata di dire prima appunto il luogo della ricerca, che è lo Stato di Santa Caterina, che è uno degli stati della regione sud del Brasile, è uno di quelli che ha visto l'origine del movimento di donne contadine, che si è poi costituito come movimento nazionale nel 2004, quindi dal 2004 esiste come movimento di donne contadine Brasile, no? Mentre prima Santa Caterina è nato come movimento di donne agricoltrici. Anche questo passaggio, se volete, poi lo esploriamo, perché non è solo una questione semantica. Quindi ecco, Giustina è stata una delle prime ad entrare nel movimento, una coordinatrice, e lei proprio descrive questi i processi educativi all'interno del movimento, che, come vedete, gli elementi fondamentali sono partire dall'esperienza vissuta dalle donne, e valorizzare tutta la dimensione potremmo dire con i termini freiriani, no? Nessuno educa nessuno, neanche se stesso, ma ci si educa in comunione, quindi ciascuno è un protagonista dei processi educativi sul doppio versante, sia di educando che di educatore. Però con l'idea appunto rispettando il sapere fatto di esperienza, però andare verso una visione più critica del pensiero. Beh, è davvero molto interessante e anche dettagliato quello che racconti, ma soprattutto dall'idea di quanta densità e intensità davvero ci sia in questo tuo lavoro, che ha tantissimi livelli. È interessante quello che ha detto quello che ha detto Marco sulla tua scrittura, perché appunto è godibile come lettura anche a chi, diciamo, non è un addetto ai lavori, fra virgolette, nel senso che passa questo flusso narrativo di cui Maria Teresa Muraca ha fatto esperienza attraverso le relazioni con il movimento delle donne contadine, a cui lei dà voce, per cui in qualche modo non parla per loro, ma ecco, come diceva lei, è un lavoro plurale. All'interno di questa etnografia collaborativa di cui cerchiamo, e lei ha cercato in qualche modo di porre i punti più importanti. Mi interessava, e questo appunto per ragioni personali che sono assolutamente politiche, appunto perché personali anche, quello che tu dicevi relativamente al fatto che una delle tue ispirazioni, ma lo espliciti all'interno del volume, nelle prime pagine, è stato appunto il femminismo, la differenza italiano, e in qualche modo aggiungo quel per amore del mondo, fa parte, come dire, di una delle espressioni più felici della comunità filosofica di Dioti, ma a cui tu, insomma, hai partecipato e variamente hai collaborato e anche scritto, mi pare, nella rivista. È tra l'altro una delle prime cose che tu hai in qualche modo portato parzialmente prima di questo volume, si trova proprio in un numero della rivista di Dioti. Mi interessava questo perché appunto il tipo di scrittura, di narrazione così incarnata, e questo partire da sé, che tu, e quindi partire da te stessa, che tu hai scelto, in qualche modo è uno dei guadagni che noi abbiamo avuto dalla pratica del femminismo. Scusate, questo microfono è di una scomodità che io sono tutta contorta, cioè vorrei guardare Maria Teresa ma non riesco. Ecco, in qualche modo ci sono delle altre parole che però mi riportano, per esempio, a quello che io ho imparato moltissimo dal tuo libro come pratiche appunto di contesto materiale, quindi lì in quel momento è, come dire, nel processo che tu hai voluto rappresentare e nell'esito che in qualche modo è stato poi questo volume, ma la ricerca e l'incontro con loro, però in qualche modo fuori dal contesto materiale, se così è possibile dire, esiste un simbolico che per esempio ci riporta a parole come conflitto, aprire un conflitto, trasformazione, sono tutte delle parole che in qualche modo provengono e di cui anche noi abbiamo fatto esperienza in altri contesti, che sono quelli per esempio del femminismo della differenza. Quindi il guadagno che c'è nell'aprire questo conflitto e nel rendere generativa la relazione, ne parlava Angela Puttino, napoletana, che purtroppo insomma è piuttosto misconosciuta ed è un dispiacere, però ne parlavano in tante. Che cosa esiste in qualche modo in questo corpo a corpo con le altre donne? Allora la domanda che ti faccio è: quanto c'è di più rispetto ai riferimenti teorici che sono già preziosi di per sé, freiriani e tutta insomma il pensiero decoloniale eccetera, nella scelta di mettere all'interno di questo tuo lavoro la pratica femminista e il femminismo a differenza italiano, e come ti sei giocata e ricontrattata con la tua esperienza personale, se possibile, un simbolico che tu hai riconosciuto anche nella relazione con queste donne del movimento contadino. Sì, diciamo che per me l'incontro con Diotima è stato anche lì qualcosa che non ho ricercato, ma che è capitato, nel senso che mi sono trasferita a Verona perché avevo vinto una borsa di dottorato lì e non ero molto felice di essere capitata proprio a Verona, e invece anche una città come Verona può riservare delle sorprese molto trasformative, perché poi di fatto l'incontro con questa comunità, che tra l'altro è anche nata nel 1983, proprio lo stesso anno in cui è nato il movimento di donne contadine, mi ha aiutato a trovare delle parole per mettere a tema delle scelte che magari avevo già compiuto in qualche modo in maniera più inconsapevole, e comunque a orientarmi decisamente verso proprio la ricerca di una relazione con delle donne all'interno dei movimenti contadini, tant'è che inizialmente forse questa era una delle discussioni che facevamo con Marco, no? All'inizio, quando ci siamo conosciuti, inizialmente io pensavo di fare una ricerca con le donne nel movimento dei Senterra. E dopo aver vissuto per un periodo con una coordinatrice dello stesso Senterra, è stata proprio lei a dirmi: guarda che c'è il movimento delle donne contadine, che potresti forse lì trovare di più quello che ti interessa. E in effetti devo dire che per me avere a che fare con il movimento di donne contadine è stato proprio avere a che fare con un movimento che è maturato, che solo negli ultimi anni ha iniziato a definirsi femminista, ma che ha un profondo radicamento nella vita, nell'esperienza, nella prospettiva delle donne che vivono nella campagna in modo particolare. Quindi è stato anche vivere all'interno di un simbolico. Loro all'interno del movimento si parla molto della mistica, una mistica femminista, una mistica femminista e contadina, che si respira in tutte le pratiche del movimento, per cui è vero che la dimensione organizzativa è la dimensione che fa funzionare tanto, però è anche vero che senza questa dimensione mistica si verrebbe meno, secondo me, proprio il senso dell'agire, no? C'è questa mistica che permette comunque di alimentare in un senso profondo la partecipazione, anche in momenti in cui la cornice è molto, molto oppressiva, come questa fase. Io penso che questa fase politica non necessariamente avrà delle conseguenze nefaste sulla partecipazione dei movimenti, anzi, forse può essere proprio un'occasione per rivitalizzare delle radici, delle spinte fondamentali del movimento. Allora, in tutto questo contesto è successo che anche io con questo libro ho aperto dei conflitti, comunque in modo particolare mi sono posizionata contro anche una interpretazione dominante del movimento, che attribuisce al movimento una posizione, diciamo, essenzialista, cioè quasi che il riferimento costante alla differenza di essere donne, no? Anche rispetto al di più che implica, che porta l'essere donne rispetto anche delle scelte agricole, sia, diciamo, coincida con il condannare la donna a determinate posizioni, no? Per esempio, come se le donne, quando riscattano i semi, in realtà stanno facendo semplicemente quello che le loro madri, le loro nonne hanno fatto, perché così ha detto il sistema di dominazione che le ha soggiogate. Allora, in tutto questo, queste sono posizioni anche delle cosiddette femministe accademiche, così autodefinite, rispetto al movimento. Allora, in questo io sinceramente ho sentito che il femminismo della differenza mi dava una grandissima potenza rispetto a queste letture. E secondo me perché il femminismo italiano è comunque un femminismo che nasce dai movimenti politici delle donne. E quindi mi dava molto slancio rispetto all'interpretazione del movimento delle donne contadine, rispetto a, appunto, l'autodefinito femminismo accademico. Non è bello, diciamo, creare delle divisioni, ma a volte fa anche parte comunque di questo campo di conflitto che è il femminismo, che anche quello non è un campo omogeneo, no? Per cui il femminismo della differenza mi ha dato molta slancio, in modo particolare anche per leggere delle cose che altrimenti non avrei visto. Per esempio, leggere le pratiche, come le donne parlano di sé. Loro parlano della differenza. Noi siamo donne, quindi siamo più degli uomini, per esempio, siamo portate a portare avanti un'agricoltura agroecologica. Poi vediamo, se vi interessa, ne parliamo di che cos'è l'agricoltura agroecologica. Però in realtà in queste pratiche c'era molto, c'era sia una componente decostruttiva, critica, di prendere distanza da certi modelli, e sia invece qualche cosa di un'apertura verso dei percorsi di liberazione. Per cui le donne, sì, è vero che hanno riscattato la pratica dei semi dalle loro antenate, magari rifacendo venire alla luce delle genealogie che erano completamente sommerse, delle genealogie femminili, no? Restituendo visibilità e valore a quello che facevano le loro madri, le loro antenate, però anche risignificandole profondamente, perché oggi la battaglia per i semi non è semplicemente fare quello che il sistema dominante ci dice, ma ribellarsi, per esempio, ai monopoli dei semi, no? Restituire e lottare per la sovranità e la sicurezza alimentare, rimettere al centro la vita quando viviamo comunque in un sistema mortifero. Ecco. Grazie. Anche forse. Sì. Beh, io direi che magari possiamo anche cominciare a coinvolgere i nostri partecipanti, per sapere se voi avete qualche domanda, poi noi ci riagganciamo con altre domande. Ma il movimento ha vissuto molte trasformazioni nel corso del tempo. In una prima fase, quindi parliamo degli anni 80, degli anni 90, le lotte del movimento si sono concentrate soprattutto sulla rivendicazione dei diritti lavorativi. Quindi loro, in quanto appunto donne, innanzitutto hanno affermato la loro professione, perché non si definivano agricoltrici, si definivano donne di casa. Per tutta anche la cornice che in Brasile collega insomma il lavoro del campo, il lavoro della terra, ha un ambito che viene disprezzato. Quindi loro hanno lottato in un primo momento per l'ottenimento dei documenti d'identità, dei documenti di lavoro, e poi anche per i diritti previdenziali. Poi negli ultimi anni, nel 2000, si è affermata questa grande questo grande tema dell'agroecologia, che è coinciso anche con l'entrata del movimento delle donne contadine nella Via Campisina e poi anche la costituzione del movimento nazionale, che quindi ha visto questo cambiamento da agricoltrice a contadine. Dovete pensare che la parola, forse le nostre amiche brasiliane magari ci aiutano anche a chiarire questi aspetti, la parola contadino non è una parola così facile da pronunciare, così neutra, ecco. Per esempio, c'è una mia amica di vecchia data che lei non parlava mai, non accettava mai che io usassi la parola camponesas rispetto alle donne contadine, perché è una parola che porta con sé significati dispregiativi, per cui l'uso della parola camponesa per il movimento, oltre appunto a mettere in relazione con altre lotte internazionali, quindi con la Via Campesina in modo particolare, serve proprio a ribaltare questa visione di disprezzo, di umiliazione che viene veicolata con questa espressione. E poi, quindi l'agroecologia non è semplicemente stato un nuovo tema, ma ha proprio risignificato molto le lotte del movimento, per cui l'agroecologia, una delle grandi questioni che questo libro ha voluto un po' contribuire, è in che modo per esempio l'agroecologia si connette al femminismo. Oggi si parla per esempio all'interno del movimento di femminismo contadino e popolare, cioè che tipo di femminismo nasce dalle nostre pratiche, no? Quali sono i nostri riferimenti nella costruzione della nostra posizione, no? Femminista. Ho anche questo è proprio forse uno dei contributi principali di questo libro, anche in che modo l'agroecologia si connette al grande tema del pensiero, della pratica e della lotta decoloniale, che diciamo è proprio una prospettiva che sta emergendo negli ultimi 20 anni, è emersa in modo particolare dall'America Latina, che secondo me è proprio foriera di spunti, di riflessioni che riguardano anche tanto il nostro contesto, e questo libro in qualche modo cerca anche di offrire un contributo rispetto a come l'agroecologia si connette alla lotta decoloniale. Se volete ne approfondiamo, ma... Allora, diciamo che è difficile parlare di mistica perché appunto ne parlava anche Paolo all'inizio quando parlava insomma di partecipare alla mistica. Ci sono molti significati di questa parola, un po' è proprio quella spiritualità, possiamo chiamarla laica, legata alla partecipazione, all'esperienza della partecipazione. Ed è in qualche modo il frutto anche di una delle radici del movimento, perché il movimento, una delle sue radici è proprio la teologia della liberazione. Però questo grande movimento che è stato proprio inaugurato dalla Chiesa Cattolica e Luterana in America Latina, che ha avuto come uno dei suoi frutti quella della nascita dei movimenti, che aveva però di fondo uno spirito molto laico, per cui la teologia della liberazione ha articolato dei movimenti, però non ha contrassegnato i movimenti. Per esempio i Senterra subito hanno fatto questa scelta di laicità, di non identificazione totale con la Chiesa, in particolare con la Chiesa Cattolica. Però da questa radice nasce l'esigenza proprio di coltivare uno spazio di spiritualità, che quindi nei movimenti è una spiritualità legata all'esperienza della partecipazione. Quindi concretamente in ogni incontro c'è un momento proprio che è di lavorazione del senso, del perché siamo qui, della bellezza del nostro incontrarsi, delle inquietudini fondamentali che ci animano in questo incontro. Per esempio penso alle mistiche che ho visto, per esempio, nei piccoli gruppi di base, che erano semplicemente uno scambio di semi, uno scambio di piantine. Ciascuna donna porta i suoi semi contadini e le scambia con le altre. E questo appunto è un lavoro sul senso del perché siamo qui, perché ci incontriamo, fino ad andare alle grandi mistiche degli incontri nazionali, che appunto hanno una preparazione molto, molto articolata, che magari hanno il contributo di diversi stati, di donne e uomini che arrivano da diversi stati e che portano, mettono in gioco quelli che sono appunto il loro contributo, oppure anche le loro questioni, le loro domande, le loro inquietudini. Quindi ecco, questa dimensione, quando io chiedevo, perché avevo bisogno, io ho fatto esperienza di mistica, per me è più facile dire, insomma, raccontare proprio quello che ho vissuto, però quando chiedevo alle donne che cos'è per te la mistica, una delle risposte che ho riportato anche nel libro è quello che, per esempio, ci permette di stare qui per giorni, perché era un incontro statale, a dormire, stiamo parlando di donne di 60, anche 70 anni, anche 90 anni in un caso delle donne, di una delle donne delle interlocutrici, stare qui magari per giorni magari dormendo solamente su materassini o nel sacco a pelo, quando tutti da fuori si chiedono chi te lo fa fare, sostanzialmente. Quindi questa secondo me è una risposta abbastanza efficace per dire che cos'è la mistica. È quello che ci fa stare qui, è il senso della partecipazione, che va sempre rinnovato ovviamente, perché non è mai dato una volta per tutte, e che secondo me è la vera forza del movimento, oltre alla dimensione organizzativa, che è molto efficace, però c'è anche questa dimensione proprio del senso. Posso, rispetto a questo, no? Rispetto alla mistica, e io diciamo, appunto, conoscendo il movimento Senterra, effettivamente è un aspetto fondamentale, proprio che per noi, insomma, da qui non è così immediato da cogliere, da comprendere, da capire, ma poi vedi che appunto è una cosa che attraversa, è proprio necessaria, cioè una divisione dei compiti di chi organizza le mistiche, ma poi appunto in realtà questo aspetto, diciamo, quasi invisibile, che però unisce tutti, quindi un aspetto un po' più profondo. E tu nel libro poi dedichi proprio un paragrafo alla mistica e lo collochi proprio come il nucleo politico-pedagogico del movimento di donne contadine. E, diciamo, ecco, sull'aspetto pedagogico ti vorrei chiedere, cioè, quindi è un qualcosa che in qualche modo si può, tra virgolette, imparare, è qualcosa che si può attivare, cioè, e magari perché poi c'è tutto appunto questo capitolo sull'educazione, no, del movimento, e come questa attiva tutta una serie di aspetti in donne che appunto magari attraverso una coscientizzazione eccetera, ecco, quanto la mistica poi si collega a questa coscientizzazione. Perché poi, vabbè, un'altra cosa che mi fa pensare è anche come tutto questo si collega anche a noi, cioè qui, però vabbè, poi magari ci arriviamo. Ok, quindi sì, diciamo che per me la mistica è proprio il nucleo politico-pedagogico del movimento, per quello che dicevo prima, nel senso che è vero che c'è proprio una... Per esempio, a me capitava di dover partire per luoghi comunque che non conoscevo, con l'assicurazione che qualcuno sarebbe venuto a prendermi quando fossi arrivata a destinazione. Ed effettivamente succedeva così, cioè io partivo senza il contatto telefonico della persona, senza un orario preciso di destino, di arrivo, eccetera, e poi succedeva che effettivamente arrivavo e c'era qualcuno che proprio in quel momento stava arrivando a prendermi. Questo si può leggere da un punto di vista di una perfetta organizzazione, quindi di una grande di una grande proprio, come dire, capacità del movimento di mobilitare energie, di mobilitare forze, eccetera. Però a fondamento di questo io credo che ci sia proprio questa grande spinta che viene dalla mistica e che io stessa ho potuto in qualche modo sperimentare. A me piace, non è forse una di quelle dimensioni più tematizzate nel libro, però questo continuo spostamento, per esempio, da una casa ad un'altra che ho vissuto di settimana in settimana, in qualche modo ha messo anche il mio corpo nella condizione fisica di essere particolarmente sensibile e recettiva a dei processi che non necessariamente passano per la dimensione intellettuale, a volte passano per la dimensione emotiva, affettiva, della condivisione proprio con queste donne. Io credo che tante cose le ho imparate perché comunque mi sono inserita anche io in questa, o sono stata anche io parte di questa dimensione del senso, no? Per esempio, una scelta, una delle scelte che ho preso rispetto alla mia posizione è stata quella di mettermi nella posizione di qualcuna che apprende effettivamente. Ed essendo anche che l'età mi legittimava in questo, perché io comunque avevo, rispetto a molti casi, l'età delle figlie delle donne con cui mi rapportavo, proprio ha permesso di rendere visibile proprio questa relazione educativa simmetrica, questa relazione di apprendimento. Quando poi parliamo di educazione all'interno del movimento, ovviamente parliamo di un'educazione in un senso molto ampio e complesso, per cui va bene pensare all'educazione come coscientizzazione, cioè non necessariamente con le nostre categorie di che cos'è l'educazione, ma appunto come un processo trasformativo delle persone e delle comunità, che passa attraverso il conflitto, l'impegno, la trasformazione. Sì, mi state facendo delle domande molto dense. Io vorrei fare una domanda e un contributo. Sì, certo. Grazie. Io sono di origine italiana, in realtà, e quindi ci riconosco in realtà in quella difficoltà di spiegare pure là mi ci sono ritrovata a interfacciarmi con diverse realtà, no? E in Messico, tra l'altro, c'è il Mosmo con i nostri cugini, per il percorso coloniale e mistico anche, no? E quindi riguardo questo penso che sia molte volte appunto si cerca di darle una teoria, di darle un'ideologia, no? Che diciamolo eurocentrica, comunque qualsiasi tipo di incastrarlo, catalogarlo, e ci si trova magari per poterlo anche condividerlo all'interno, no? Però è davvero complesso, bisogna e molte volte tenendo i posti o avendo un certo tipo di educazione, di costruzioni, si dovrebbe deconstruire tutto dal patriarcato, al capitalismo, al pensiero coloniale, per poter poi capire un altro contesto, un'altra cosmovisione, no? Per poter capire che queste popolazioni, per esempio, se vogliamo collegare all'ambiente, ci nascono ambientalisti, il rapporto con la natura, il rapporto con l'essere, il comunitario, no? Un altro contesto, un altro, che io sono già una seconda generazione. Sì, mi sento molto più vicina, riesco a capire molte cose perché l'articolo l'ho visto, l'ho vissuto, no? Vivo qua e comunque facendo un percorso anche accademico sono riuscita proprio a capire che effettivamente Allora, la scelta di fare un'etnografia collaborativa, la scelta di questo approccio nasceva anche dal fatto che questo approccio mette di molto in discussione, amplia tanto il concetto di l'idea di restituzione, nel senso che questo approccio innanzitutto chiede che lo stesso oggetto della ricerca venga in qualche modo costruito insieme alle persone concretamente coinvolte, per cui per esempio la scelta di soffermarmi su questo tema dell'agroecologia del rapporto tra agroecologia e femminismo era perché comunque era qualcosa su cui il movimento stesso voleva lavorare. Quindi questo è un primo livello. Un altro livello è questo dell'impegno a non arrivare a una sintesi rispetto alle interpretazioni, però quantomeno mettere o creare occasioni di discussione rispetto a tutte le divergenze che andavano maturando nel mio lavoro rispetto alla posizione ufficiale del movimento. Dico posizione ufficiale del movimento perché il movimento ovviamente non ha un'unica posizione su tante questioni, però ci sono delle ovviamente il movimento si rappresenta all'esterno e in queste rappresentazioni verso l'esterno ci sono alcuni punti saldi, per cui quando per esempio vedevo che le mie interpretazioni si discostavano da queste rappresentazioni ho sempre cercato di discutere con il movimento. Questo ovviamente non ha portato sempre ad una sintesi, no? Che alla fine andavamo via che eravamo tutti d'accordo, tutte d'accordo, però comunque ha permesso di mettere in discussione, ampliare il discorso, magari innescare anche dei processi di riflessione, autoriflessione all'interno del movimento, mettere proprio anche in, cioè complessificare anche delle posizioni mie, eccetera. Poi una cosa bella che è capitato è che le due donne del movimento sono state scelte dal movimento per comporre la commissione giudicatrice del mio dottorato. Quindi in sede di dottorato ci sono state due donne del movimento e questo è stato veramente molto bello dal punto di vista simbolico, perché comunque sono state le prime, anche nel libro sono comunque le prime parole, sono le parole del movimento, prima della prefazione e dell'introduzione. E quindi questo per dire che, insomma, per dare forza a quell'idea che effettivamente questo libro è un libro scritto insieme a tante persone, tante donne. Poi diciamo che io ho quest'idea che comunque la relazione nata nella ricerca continua, per cui ovviamente insomma ci sono state tutte delle restituzioni diciamo classiche, le riviste, le interviste sono state trascritte, restituite a ciascuna autrice, il lavoro di tesi è stato restituito in ognuno dei municipi prima della discussione ovviamente, abbiamo realizzato insieme un documentario in cui secondo me ci sono alcuni temi del libro in un modo che possono essere diciamo fruiti e goduti anche dalle persone che non si metterebbero a leggere veramente il libro, non perché diciamo perché magari appunto hanno un altro stile di vita che non prevede così tanto la presenza della lettura e della scrittura eccetera come pratiche quotidiane. E poi anche l'anno successivo alla conclusione della mia tesi sono venute tre donne del movimento all'interno di un convegno che abbiamo realizzato all'Università di Verona e adesso per arrivare ai nostri giorni altri tre persone della rete nazionale Freire Boal, che è una rete di cui faccio parte, stanno per partire e tornare nel movimento proprio dove sono stata. Cioè, quindi l'idea è quella che una delle domande che mi è stata posta, no? da una delle persone presenti nella commissione giudicatrice, hai spiegato bene come è iniziato il campo, però non hai spiegato come è finito il campo, perché per me il campo non finisce, cioè c'è un inizio delle relazioni che comunque speriamo che continuino, che le alimentiamo da un punto di vista politico. Quindi una delle grandi sfide di questo libro è stato come complessificare, ampliare, problematizzare e inventare nuove forme di restituzione. Ecco. Sulla agroecologia, Sì. Allora, l'agroecologia è, diciamo, una delle grandi questioni, la questione forse fondamentale dei movimenti contadini nel mondo, in modo particolare è la questione al centro della Via Campesina, che è comunque un'organizzazione in cui le donne contadine e altri movimenti si riconoscono e sono organizzati. Con il termine agroecologia si possono intendere vari livelli. Un livello è l'agricoltura ecologica, che non usa quindi pesticidi, fertilizzanti chimici, semi ibridi, semi OGM, ma cerca di recuperare quelle che sono, ovviamente reinventandole alla luce delle conquiste attuali, no? Le conquiste tecnologiche attuali, però reinventare le pratiche di produzione, autoproduzione, moltiplicazione e scambio di semi, per esempio, e tutto quello che permette un'agricoltura ecologica. Ad un altro livello, nel movimento appunto si dice che l'agroecologia è anche uno stile di vita, è anche un progetto di società, nel senso che quando parliamo di agroecologia non pensiamo semplicemente al prodotto biologico che magari si potrebbe trovare nella filiera, anche nella grande distribuzione, ma pensiamo a come ripensare le relazioni all'interno della famiglia, le relazioni di carattere proprio produttivo, di chi si occupa di che cosa, come rafforzare le reti contadine, come immaginare altre vie di commercializzazione, tenendo sempre al centro come grandi questioni la sovranità e la sicurezza alimentare, cioè il diritto comunque di ogni popolo di scegliere come produrre e scegliere cosa produrre per garantire però innanzitutto la sovranità, il fatto che tutti abbiano cibo in quantità sufficienti. Cosa che ovviamente è molto minacciata se pensiamo all'agricoltura come l'educazione sono due grandi, secondo me, contesti profondamente minacciati dalle politiche neoliberiste, no? Se noi pensiamo che nel mondo ci sono tre grandi imprese che detengono il monopolio dei semi OGM, insomma, la resistenza contadina è proprio un altro orizzonte. Io giusto su questo mi piaceva una parte del libro, no? In cui diciamo che si collega proprio all'agroecologia in termini anche di implicazioni politiche degli atti quotidiani, questo in qualche modo tu, ed è un qualcosa che secondo me dialoga molto anche con la nostra quotidianità, nel senso che appunto oggi siamo molto proprio spinti, anche come diceva Paolo, al fatalismo, per citare Paolo Freire, ovvero che nulla è mutabile, che la trasformazione comunque è impossibile, il pensiero unico e così via. E in qualche modo tu attraverso l'approfondimento anche delle pratiche quotidiane delle donne metti proprio in luce come loro attraverso le loro pratiche e si sentono che stanno trasformando se stesse, ma stanno trasformando il mondo, no? E proprio le pratiche politiche pedagogiche del movimento Donne Contadine Santa Caterina rivelano processi trasformativi permanenti, complessi, in cui si articolano istanze egocentriche ed eterocentriche. Anche quando le mie interlocutrici indicano nell'agroecologia un progetto di società, non ne proiettano la realizzazione nel futuro, immaginandola come un sistema che si affermerà una volta per tutte in seguito a una rivoluzione. La presentano come un cambio di civiltà già in atto, che le donne e le loro organizzazioni fanno accadere attraverso concrete scelte quotidiane. Questo effettivamente apre un po' uno spazio, secondo me, a pensare anche noi, a ripensare le nostre scelte quotidiane, le nostre pratiche. E l'agroecologia forse è anche un tema che i movimenti contadini in Brasile, in America Latina, stanno sempre di più sviluppando e portando anche nelle città. Siamo a Roma e in qualche modo credo che sia importante anche capire quanto questi ponti, anche tu fai riferimento anche quando parli dell'agroecologia, che può essere un campo di alleanze, di ponti. Ecco, questo tu quanto l'hai anche percepito magari nella tua ricerca, e se pensi che effettivamente visto che comunque ora vivi in Italia, e rispetto anche alle tue esperienze qui, quanto questo può essere un campo praticabile e che in qualche modo anche come da spingere come campo di lotta e da promuovere in questo senso. Sì, la questione agroecologica in realtà è proprio molto, molto presente anche qui, e comunque sta nascendo, si sta cercando di costruire una coscienza agroecologica anche qui in Italia e in Europa. Diciamo che quando io sono partita per il Brasile avevo magari l'esperienza dei GAS, facevo parte di GAS, facevo parte di anche piccole realtà locali, però non avevo mai usato la parola agroecologia, qualcosa che io ho conosciuto effettivamente in Brasile. Quando però sono tornata mi sono resa conto che effettivamente questa parola incominciava a connotare molto anche i contesti che prima frequentavo e che poi ho ripreso ovviamente a frequentare. Per esempio adesso mi è capitato qualche giorno fa di fare una presentazione a Parma nell'ambito del movimento Genuino Clandestino, che forse avrete sentito, che comunque sta usando sempre di più anche questa parola agroecologia. Perché? Perché è una parola che in qualche modo ancora riesce a sottrarsi a delle logiche neoliberiste, diversamente da altre parole come la parola biologico, no? Perché proprio la parola biologico sempre di più è stata assorbita dalla grande distribuzione e che ha depotenziato anche molte esperienze. Banalmente oggi è più facile magari sentire di stare compiendo delle scelte comprando i prodotti biologici nella grande distribuzione, però innanzitutto bisogna chiedere, io ho la fortuna di frequentare persone che lavorano nella certificazione biologica, bisogna chiedersi su che basi si costruisce una certificazione biologica. E in questo libro si parlano anche delle tutte le pratiche di certificazione partecipata, cioè quando è la relazione tra produttori e consumatori che definisce un cibo sano, un cibo salubre. E quindi rispetto a questa appropriazione che si è vista da parte del mercato della parola biologico e di tutta la nicchia del biologico, che rischia di essere comunque quindi appannaggio di chi si può permettere anche di investire un po' di più nell'acquisto dei prodotti, l'agroecologia scompiglia queste logiche, perché non punta semplicemente, come dicevo prima, su una produzione libera, priva di pesticidi, di fertilizzanti chimici, di OGM o di ibridi, ma proprio mette in questione per esempio la relazione tra produttori e consumatori, che ovviamente deve essere anche lì una relazione che è veicolo di processi educativi. Mette in discussione i contesti in cui avviene lo scambio, le motivazioni che ti spingono a acquistare delle cose piuttosto che altre. Ecco, poi concretamente nel pratico il movimento lotta molto proprio per la creazione di canali alternativi di commercializzazione, che è quello che un po' anche noi sperimentiamo con le varie fiere, i vari mercati locali, i GAS che sono un po' in sofferenza, gruppi di acquisto solidale sono un po' in sofferenza negli ultimi anni, ma che è una pratica che dobbiamo tenerci stretta, perché proprio nei GAS appunto avviene quel cambiamento quotidiano, perché esci proprio da una logica di compro quello che mi pare a prescindere da dove viene, chi l'ha prodotto, in che condizioni, ma incomincio ad interrogarmi, a sentirmi partecipe di alcune scelte e anche di sostenere l'agricoltura. Poi ovviamente poi anche in Italia si sono moltiplicate altre esperienze, le CSA, che sono le comunità che sostengono l'agricoltura, sostanzialmente dei GAS un po' più strutturati, oppure adesso per esempio a Bologna c'è molto l'esperienza di Camilla, avete visto questo vecchio GAS che è diventato un negozio, insomma ce ne stiamo inventando un po' qualcuna per anche ripensare la forma GAS, però senza abbandonarla, perché è un grande veicolo di processi trasformativi. Quindi sì, assolutamente l'agroecologia è una lotta che riguarda tutti, anche perché poi i monopoli sono globali, per cui anche le pratiche profondamente radicate nei contesti locali però devono avere questa logica di connessione, sì, altrimenti si impoverisce. Sì. Hai visto la propaganda popolare? Poi è venuto a questo incontro perché sono interessato al tuo lavoro, nel senso che non lo so se conosci che la Roma 3, l'Università Roma 3, stanno facendo un incontro diverso perché viene un convegno della Scuola Popolare. Io qua io sono molto preoccupato perché sono iniziato una biblioteca popolare, perché sono laureato di Venezuela, sono io laureato con la filosofia di Paulo Freire. E la stessa università mi ha fatto un invito, però mi preoccupa questa cosa, che se banalize la filosofia di questo grande hombre, come si lo suppone in spagnolo, questo grande uomo come fu Paulo Freire, pedagogista molto grande, con su filosofia, e mi sento molto preoccupato perché nella storia dell'Italia esiste pure una storia molto pesante della scuola popolare. Io, qual è questa introduzione che sto facendo per dire questa cosa? Tu lavoro è una interpretazione dal punto di vista dell'Europa, alla lotta che si fa in America Latina, una interpretazione che può diventarsi dopo una banalizzazione del lavoro che si continua facendo di tanti movimenti senza terra e tanti movimenti, perché come diceva Emiliano Zapata, la lotta sempre è per la terra, no? Allora io lo dico con questa cosa, perché sono molto preoccupato perché io devo parlare in una conferenza di Paulo Freire, sono un impegno molto pesante pure per me, perché sto facendo un laboratorio con bambini nella stessa biblioteca con la istruzione orizzontale. Si è una interpretazione dell'eurocentrista, come dice la quella paesana peruviana, è molto preoccupante perché a quando Italia ho visto tante cose in 5 anni di esilio in Italia, ho visto come si è banalizzato tante ideologie. E quando vedo tuo lavoro, che l'ha visto la propaganda, devo andare, perché sono molto preoccupato anche per farti l'invito, non so se puoi andare, però non lo so, la lavoro tua, il tuo lavoro del libro, si c'entra la lavoro di Paulo Freire, perché ho sentito che parlava Paulo Freire y de este movimiento feminista, que el feminismo puro, se lo he dicho a ley una vuelta, el feminismo puro en América Latina es muy diverso que en Europa, porque si fan una interpretación no la trovan, es como decir el comunismo o la lucha por la emancipación y tantas cosas. La estesa, el movimiento zapatista no lo saben, la gente de sinestra no lo sabe, si es sinestra, qué cosa es, y no lo trovan porque no es siniestra pura. Allora, ¿qué te debo decir? Mi preocupación es que questo, no lo sucede tu lavoro, se trova questo, y de la lotta por la terra pure, porque la terra para noi, soprattutto lo que siamo de qualcuna origine, o quasi tutti in America Latina, siamo del popolo originario, le decimos nosotros. Perché la terra per noi, si parla di genere, è una donna, femmina. E allora io sono molto preoccupato che questa cosa si inizi a banalizzare qua, in Europa. Perché? Perché tu conosci molto bene, secondo me, credo molto bene come noi, che come si è sfruttato la terra in America Latina, soprattutto nel confine del nostro paese, in Brasile e in Venezuela, con la mineria, e come hanno fatto l'Amazzonia. L'Amazzonia, adesso, tempo fa, si stava bruciando, ha capitato in Australia, che non è casualità. Esiste l'interesse di prendere questa terra per sfruttarsi con il semen, come si chiama, criogenico, transgenico, dove sognano loro, la multinazionale. E allora l'Amazonia non è nostra, non è del Perù, non è del Brasile, né del Venezuela, è di tutto il mondo. E quella è una cosa molto preoccupante per noi. No? Pensavo a queste due domande. Se tu libro c'è qualcuno al lavoro, se parla del lavoro che ha fatto Paolo Braille, non nel senso come lo vede, come si guarda qua in Europa. E sì, c'entra qualcosa con l'Amazonia, perché sono due cose che, secondo me, secondo anche esiliato nel mio paese, sono molto preoccupato per questa cosa. Te complimento per il tuo lavoro, perché penso che non lavoro alla ricerca e stare con loro è etnografica ormai. Sì. È una lavoro molto che è laboriosa, vuol dire non tenere due cose, molto laboriosa. E allora complimento per quello. Mi piacerebbe trovare anche il documentario e il libro. Allora, sì, Paolo Freire è una delle ispirazioni di questo libro, ma in particolare mi interessava vedere come il movimento delle donne contadine reinventa l'ispirazione freiriana nelle sue pratiche. Quello che secondo me è interessante di Paolo Freire è che ha lasciato molte porte aperte, ha aperto molte strade e non ha dato delle risposte definitive, perciò, permette di ricreare, ripensare il suo pensiero anche rispetto alle sfide del presente, diversamente da altri autori, per esempio, che secondo me a volte hanno legittimato, hanno favorito delle interpretazioni più ortodosse. Paolo Freire ha dato delle indicazioni, come dicevi tu, una filosofia che può essere reinventata e apre altre strade. Diciamo che una delle mie preoccupazioni non è stata il timore di banalizzare Freire o banalizzare il movimento, però ci sono state altre inquietudini. Quello che io ho cercato di fare è di essere sempre in una posizione di autocritica, autoriflessione, autovigilazione rispetto a comunque l'incontro con le altre, con le altre donne. Allo stesso tempo io credo che ognuno di noi, ogni donna, ogni uomo, siamo abitate da tante differenze, da tante appartenenze identitarie, per cui non è che io sono europea e basta, per esempio. Quando mi presentavo alle donne, per me era più facile dire che io ero mediterranea, perché sento che c'è, in quanto io calabrese, io mi sento più situata in un contesto mediterraneo che mi connette al Mediterraneo, alla Magna Grecia, per dire, o al Nord Africa, ai processi migratori, eccetera. Poi, appunto, c'era questo legame dell'essere donne, c'era un legame dell'io essere ricercatrice, ovvero noi pensiamo sempre all'identità come qualcosa che ci separa dagli altri, ci oppone agli altri, ma possiamo anche usare le identità molteplici di cui siamo abitati per incontrare le altre. Quindi io penso che in realtà, ecco, mettersi in discussione costantemente, sempre, senza mai smettere, però anche pensare a quali sono i ponti, su quali vie possiamo fare leva per creare dei ponti con le altre. Per esempio, uno degli effetti di questa ricerca, che è una ricerca che appunto ha investito l'esistenza, è che io in realtà mi sono poi resa conto che in tutte le motivazioni esistenziali che mi avevano spinto ce n'erano alcune che non avevo considerato subito. Una di queste è che io ho una radice contadina nella mia storia, e conoscere questo movimento mi ha portato anche a riflettere su, per esempio, il fatto che in Calabria nel dopoguerra ci sono state le lotte contadine più significative del Sud Italia, per esempio, che tutto il Sud Italia ha vissuto una stagione di lotte contadine molto importante, che è praticamente una storia sconosciuta, un po' dimenticata, e che in Calabria abbiamo vissuto questa, grande stagione, per cui una delle mie prossime scommesse in realtà è lavorare su questo, cioè anche sulle mie radici contadine, sulle radici contadine dei contesti del sud Italia in modo particolare. Sull'altra questione dell'Amazzonia, io non mi sono, diciamo, la ricerca non si è focalizzata su un paese, su un territorio legato all'Amazzonia, ma nel sud del Brasile alcune sfide comunque si possono riscontrare, perché per esempio anche nel sud del Brasile c'è la Mata Atlantica, questo bioma, la Mata Atlantica, che è stato molto minacciato, e pertanto per un certo periodo la difesa dell'Amazzonia ha legittimato, non siamo in questa fase, ma in un certo periodo la difesa dell'Amazzonia ha legittimato invece la devastazione di tutti gli altri biomi, la Mata Atlantica, il Cerrado, per dire, per cui in realtà i problemi sono molto connessi. Ci sono altre domande? Qualche altra considerazione? Posso dire, io sono anche un'ex allieva della Fondazione Basso, della Scuola di Giornalismo, sono una sua collega, sono anche un dottore di ricerca, ho fatto il dottorato di ricerca in diritto costituzionale qui in Italia. E adesso l'ultima battuta che lei ha detto, che è stata molto importante, questa, che lei è andata lì a fare una ricerca. Tante volte si fanno le ricerche dell'America Latina per cercare di trovare un strumento che riesca a cambiare la realtà dell'America Latina, di come paese sotto sviluppo, sud, centro dell'America Latina, no? Però questa ultima cosa che lei ha detto è stata molto importante, soprattutto parlando di Calabria. Ha detto, io sono andata lì, grazie alla sua domanda, lei ha detto una cosa molto importante, io sono andata lì perché ho i miei origini calabresi, tutti sappiamo qual è la realtà della Calabria, perché studiamo, siamo qui, in quanto alla differenza tra nord e sud, no? Le difficoltà soprattutto agricole, no? E lei è andata lì a Brasile proprio per fare uno studio di queste donne, al di là di chi sono femministi o no, ma il movimento agricolo, proteggere la natura, il cambiamento climatico in questo contesto. Però poi lei ha detto una cosa molto importante, ha detto, a me questo mi ha insegnato, mi ha dato la spinta, le linee guida per arrivare in Calabria, sapere come fare un movimento per far crescere quella mia regione dal punto di vista dell'agricoltura, come movimento, come una... Loro mi hanno detto come farlo, perché ovviamente non stando questa realtà in Europa, ma andando oltre, per esempio, la via legale, tramite le normative europee, la Costituzione italiana, le leggi, c'è la normativa, ma non c'è questo vincolo, questa parte emotiva che sempre c'è dietro un movimento, come l'ha fatto Linda Vinci, come l'ha fatto tutti. Allora, è interessante questo, perché praticamente queste donne le hanno dato a lei questa anima, questa piccola luce, questa linea guida, questo faro, per lei fare una cosa importante. E non parlo solo della Calabria, ma potrebbe anche coinvolgere Sicilia, queste regioni che hanno questa questione dell'agricoltura, e soprattutto in un momento come questo in cui la Unione Europea si è aperta e iniziata, sta in partenza, c'è un bilancio europeo in cui uno degli argomenti è l'agricoltura. Il bilancio, i soldi che daranno loro a lei, potrebbe essere un motore molto importante da questo punto di vista. E sono contenta che proprio siano state le donne brasiliane, queste donne che magari non hanno un dottorato, non sono studiose, le hanno dato quello che a lei le mancava dal punto di vista per fare una cosa, potrebbe essere molto, molto importante, riprendendo sia gli insegnamenti sia di Linda Vinci, di Lelio Basso, di Freire, tutti questi movimenti che si sono creati in Brasile, ma anche in Venezuela, in Messico con Emiliano Zapata. Siamo, siamo al terzo mondo, però ancora l'Europa sta imparando da noi, sembra. No, vabbè, anche questa cosa di... Stiamo imparando noi, soprattutto dell'Italia, che è il cuore che ha mosso, è stato di fondatori dell'Unione Europea, no? Però questo guardi, è una cosa molto bella che lei ha detto, ha dato una cosa importante. Perché effettivamente, quando si parte dall'America Latina, in Italia o in Europa, è per cercare di riportare un strumento via la comparazione, per riuscire a trovare qualche elemento di cambiamento. Ma dal punto di vista dell'anima, di questa mistica, credo che sia importante. Mm-hmm. E credo che vivendo in un momento in cui non è soltanto un bilancio economico europeo, modificare il capitalismo, dargli una nuova visione, questo che lei ha imparato in Brasile, da queste donne, da tutti questi studi, che è molto tecnico, anche molto politico, e guardando la realtà di questo XXI secolo, credo che può essere importante. Anzi, le posso dare un suggerimento. C'è adesso nell'Unione Europea, ci sono dei premi, lei va a guardare il Parlamento in Italia, sono due concorsi per inviare uno studio che potrebbe essere importante, le scade il 21 febbraio, potrebbe magari inviare con questa prospettiva di dire potrebbe essere una cosa importante. Un fondo europeo della Mediterraneo. Guardi, rispondi Maria Teresa. Volevi dire qualcosa? No, rispondi. Ok, allora io penso che sicuramente, come ho detto all'inizio, il mio atteggiamento è stato quello di una persona che impara, cioè con il movimento io imparavo e le donne insegnavano di tutto, dal mungere la nuca per dire che è qualcosa che ho imparato, al racconto del movimento, alla politica del movimento, alla storia del movimento. Poi io penso che le possibilità, appunto, essendo in questa logica dell'educazione, le possibilità poi che si aprono di apprendimento sono veramente molto grandi per tutti, nel senso che sono sicura che io me ne sono andata via con tante ispirazioni, sicuramente ci sono dei contesti ai quali posso contribuire, con i quali posso creare delle connessioni, sicuramente anche il movimento se ne è fatto qualcosa di quello che è stata la mia presenza e questa ricerca. Poi ovviamente noi dobbiamo ancora portare avanti tutta questa decostruzione che c'è tra sud, nord, sviluppato proprio, dovrebbero essere parole ormai anche ampiamente superate, sviluppato, sottosviluppato, ecco, sono parole che creano divisioni, che non hanno nessuna efficacia dal punto di vista di cogliere quello che succede nella realtà. L'idea dello sviluppo ci dice che tutti facciamo la stessa cosa, seguiamo lo stesso processo, e non è così, perché comunque non seguiamo tutti la stessa linea, per fortuna, insomma. Quindi sì, secondo me anche questo libro un po' cerca di problematizzare tanto quello che è stata la modernità nell'agricoltura, la modernità nell'immigrazione, la modernità nel pensiero, e cercare anche di vedere come le decostruiamo tutte queste idee che non servono, non ci aiutano veramente a imparare gli uni dagli altri e a trasformare la realtà. Vuoi dire qualche cosa? No, assolutamente, no, ci tenevo che tu rispondessi, perché appunto mi sembrano questi ultimi due interventi molto articolati, per cui tra l'altro che poi insomma in qualche modo conseguono da quello che un po' la ragazza dietro, di cui mi spiace tu non hai detto il nome, quindi non so, Lise, ha detto riguardo la mistica, che invece è stato importante secondo me proprio chiarire, forse bisognava dirlo da subito, ma io immaginavo che fosse un prerequisito praticamente di tutti i presenti e le presenti, mentre in realtà bisogna sempre ribadire, perché appunto c'è questo pericolo costante. Il tuo posizionamento, per chi legge il libro, ma credo che tu non l'abbia letto e neanche tu appunto venite e sei arrivato anche in ritardo all'incontro, nel senso immagino che avrà avuto delle cose da fare, per cui non è, ecco. E però appunto leggendo il libro in qualche modo no, non è che non mi è piaciuta la domanda, è che tu, cioè, nel senso, non è che arrivi in un posto un pochino tardi e dici non vorrei che avessi banalizzato, perché se fossi rimasto qua dall'inizio, se fossi stato presente all'inizio, avresti appunto appreso che il posizionamento di Maria Teresa è assolutamente un posizionamento che lei stessa riconosce e ha autoriconosciuto come privilegiato, di donna bianca, eurocentrica, eccetera, per cui non l'ha detto perché appunto si immaginava che fosse un prerequisito. Però invece mi interessa molto quello che poi è uscito fuori dall'ultimo intervento della signora, che non so. Sono l'avvocato Giulma Valderas. Giulma. Sono anche dottore del ricerca. Bene. No, appunto, nel senso che secondo me questo dà il compimento, come dire, un po' della serata, nel senso che si congiunge con l'apprendimento, visto che parliamo di educazione e di sistemi educativi, cioè rispetto a un'apertura che è quella di cui poi Maria Teresa ha parlato, cioè arrivare e poi non chiudere il campo, perché in qualche modo il campo si genera e si autogenera, per cui mi sembra insomma che in qualche modo sia un po' questo che lei è riuscita a comunicare. Almeno io ho imparato tantissimo da lei e da questo libro, che mi sembra molto, per utilizzare una parola talvolta abusata e anche qui molto manipolata, piena di significati, come dire, che non le appartengono, mi pare che sia stata una ricerca molto autentica. E quindi questa cosa, appunto, che con semplicità tu le hai detto e lei ti ha risposto, mi è sembrata una cosa bella per concludere sì, l'incontro. Sì, sai perché ho detto questo? Perché sì. Io so cosa significa fare una tesi di ricerca in Italia, io so cosa è un dottore di ricerca in Italia, cioè, sono parolone, perché anche per entrare a fare l'esame all'università italiana, io li adoro gli italiani, anzi sono messicana, per il mio cuore è l'italiano, la mia mente è internazionale, perché io so quanto hanno dato gli italiani all'umanità, una persona che studia. Quando io le dicevo, lei è andata piuttosto che insegnare, perché ovviamente in scambio è più complesso spiegare una persona che non ha gli stessi studi, farle capire tante cose che uno vuole cambiare il mondo, eccetera, eccetera, attraverso di cose tecniche. Quando io le ho detto, era una cosa positiva di dirle, lei è andata lì a capire quelle, se può dire un po', quelle polvere magica per riuscire a fare qualcosa importante in Italia. Cioè, quello che magari può essere la chiave di lettura per un... Quando io dico sviluppo, sottosviluppo, non è una cosa peggiorativa, anzi, dobbiamo essere anche realisti e dire sì. Nord e sud, sia dell'Italia o del Messico o del Venezuela, sempre c'è questo problema. Perché? Perché no, c'è il problema delle risorse, che non si spendono bene, eccetera, tante cose. Quando lei è andata lì, è andata a prendere qualcosa che le mancava, perché quella parte umana, quello di vivere lì in quelle case, poi tornare alla sua realtà in Calabria, che io conosco, e lei può avere quel cuore, quella testa fredda per dire adesso lo faccio. E un consiglio che io le do, che ho visto che è un piccolo sbaglio degli italiani, è che fanno delle tesi meravigliose, però quando è arrivato il momento di fare l'azione, devi fare non tanti studi, vai sul concreto, tira, fai subito. Sono stata in un incontro adesso in Europa, per il bilancio dell'Europa, che è stato alla Camera di Commercio una settimana fa, che c'era il Presidente del Parlamento Europeo e c'era anche il Premier e tanti rappresentanti di voi in Europa, e parlavano di un punto che è il problema dell'Italia, che è lo spreco di tempo. Non prendete troppo tempo, ma andate sull'azione, progettazione, azione e coesione. E questo che lei ha imparato in Italia, se mi permette di dire, le hanno dato l'anima per lei essere il motore per dire organizziamoci, facciamo così. Adesso con le parole più tecniche, più concrete, andiamo sul bilancio, che in questo momento è in discussione nel Parlamento Europeo. Perché l'Italia, un'altra cosa che è uscita da questo incontro, era che l'Italia offre i migliori prodotti agroalimentari al mondo. Non produce tanto, ma produce eccellenza. E questa eccellenza è nelle sue mani adesso. Sembra una chiamata. Che risposta. Conoscere l'Europa. Va bene, grazie. Perché, no, guarda, le ricerche che si fanno in Italia non si fanno da Calabria. Assolutamente. Immantinente, direi. Per rivedere la mia tesi di ricerca alla Corte Costituzionale italiana. Solo per rivedere le ortografie, le cose, una cosa così, però è stata una bella esperienza. Grazie. Sì, sì, sì. Vuoi salutare anche tu? Qualche battuta finale. Qualche battuta finale. Un saluto. Beh, io allora, non so se ci... chiudiamo. Ringrazio, faccio un primo ringraziamento, poi lascio la parola anche a voi. Intanto ai partecipanti che siete rimasti, insomma, siamo... fino a quest'ora, perché veramente insomma, la discussione e il dialogo è stato è veramente interessante, anzi forse appassionante, neanche mi ero accorto dell'orario, sinceramente sarei andato avanti con altre domande, ma poi però effettivamente, dice Alessandra, è verissimo, forse è un risultato molto interessante questo, che poi è un aspetto che tu effettivamente sottolinei nel libro e chiudi il libro così, no? Con dei temi generatori, diciamo, comunque, per usare una parola appunto di Freire, ma degli stimoli, no? Delle aperture a nuovi spazi, nuove ricerche. E in questo io anche in questo ti ringrazio, perché effettivamente leggendolo a me mi hai suscitato tante cose, mi hai generato tanti spunti, tante riflessioni, inquietudini che voglio sicuramente approfondire, e ne parleremo comunque. Però insomma, ecco, grazie, e anche a livello concreto devo dire che nel libro c'è anche un invito alla partecipazione proprio, e alla bellezza anche della partecipazione politica, pedagogica, e questo devo dire che insomma si trova proprio in tutto il percorso, quindi credo, insomma, questo è anche un ringraziamento ulteriore a Maria Teresa per aver messo anche a frutto questi anni di lavoro, di ricerca molto molto accurata, la bibliografia interessantissima. Volevo farti una domanda, ma ovviamente non c'è tempo, però anche riprendendo degli autori italiani come Aldo Capitini, Danilo Dolci, insomma, che sono molto dimenticati, ma in realtà sono dei riferimenti molto importanti, che insomma è importante riscattare, trovarli insieme a Freire, insieme a me, è stato veramente bello, quindi grazie questo. Grazie prima tu, grazie. Grazie a Maria Teresa. No, a me solo un aspetto sta emergendo, diciamo, in questo momento, anche avendo ricevuto in regalo un libro di Linda Bimbi, quindi anche un omaggio al suo lavoro, al suo impegno. E in effetti nei movimenti in Brasile, come il Movimento delle Contadine, il Movimento Senterra, c'è anche una lettura rivoluzionaria del cristianesimo, che invece per tanti secoli ha avuto una falsa interpretazione conservatrice, basata su dei dogmi, su delle strutture oppressive, sul controllo, in particolare il controllo nelle campagne. Invece proprio nelle campagne ci si riappropria di una lettura, di una filosofia rivoluzionaria, trasformativa, di un impegno trasformativo del cristianesimo, e che in qualche modo si integra con un'idea di socialismo, quindi andando a rompere due barriere. Io ti ascoltavo prima e vedevo che spesso dici: no, non facciamo queste categorie, se no creiamo delle barriere, no, non facciamo queste altre, se no creiamo dei muri, no? E in effetti proprio questi movimenti sono sintesi di un abbattimento di muri anche ideologici, perché anche parte del socialismo, in una forma di ostinato ateismo in qualche modo, ha chiuso le porte rispetto invece a un mondo che si apre, che è quello della spiritualità. Cioè, parlavi della mistica laica, ma la mistica ha una spiritualità che nella struttura istituzionale della Chiesa certamente non trovi. Quindi in realtà la laicità è andare oltre quelle che sono delle organizzazioni che chiudono, ma invece una ricerca della spiritualità. E in questo, credo che questo sia un dono, insomma, che ci fa il tuo lavoro, e che ci fa tutta ovviamente l'esperienza dei movimenti dell'America Latina, e questo luogo, insomma, questo luogo ha un significato molto forte, quindi stare qua è molto importante, è un onore veramente, lo dico nel senso più profondo del termine. Quindi grazie di nuovo. Alla prossima, insomma, grazie a tutti. Ringrazio anch'io nuovamente tutte le persone che sono intervenute, Alessandra, Paolo, Marco, ma anche ciascuna e ciascuno di voi. L'esperienza che io faccio è che questo libro si continua a fare ogni volta che comunque ne parliamo, nascono spunti di riflessione, nuovi sguardi sul lavoro, quindi mi piace pensare, ecco, che anche questo è un contesto generativo in cui questo libro continua a farsi e a pensarsi, quindi grazie veramente a tutte e a tutti di essere stati qui.